Torniamo in diretta, siamo al telefono con una compagna del collettivo Alter Eva di Torino. E allora, ben trovata. Noi, vabbè, innanzitutto, forse per presentarvi e presentarci, ti chiediamo di in due parole raccontarci un po' la storia di questo gruppo, di questo collettivo, che cosa fate, di cosa vi occupate, quando siete nate. Allora, noi siamo nate, ci siamo trovate durante l'onda, insomma, abbiamo iniziato a discutere, a prendere, come si dice, coscienza di noi. E poi siamo partite perché in Piemonte la situazione non è ottima per quanto riguarda la 194. E quindi abbiamo lavorato tanto contro la delibera Cota che inserisce il movimento pro-life all'interno dei consultori degli ospedali. E poi lavoriamo principalmente facendo un laboratorio nelle scuole superiori sulla sessualità, dove pensiamo che appunto la sessualità sia insomma l'ambito attraverso il quale poi passano tutti i discorsi di violenza, di limitazione della libertà delle donne e anche in un certo senso degli uomini. E quindi principalmente appunto ci siamo occupati di questo. Poi nell'ultimo periodo ci siamo visti i tagli alla cultura che vanno a toccare per prima il pensiero delle donne, i centri di studi delle donne, ci siamo occupati di fare una, insomma, dell'altra cultura della controinformazione, organizzando un seminario interdisciplinare di studi di genere all'università. Poi voi siete studentesse? Si fanno delle campagne che si portano avanti sul territorio e si fanno dei contropresidi davanti al Sant'Anna quando c'è l'omino con la croce nera, con i fetini attaccati, facciamo tutto, non so, quello che possiamo. Bene, senti, e avete fatto anche questa contestazione alla Fornero che ha avuto anche eco così tra giornali, video che girano su internet. Intanto, vabbè, ovviamente, visto che di quello che hanno parlato i giornali, insomma, ci accontentiamo fino a un certo punto, ti chiediamo a te di raccontare com'è nata l'idea di questa contestazione e come si è svolta. Sì, i giornali diciamo che sono abbastanza parziali. Quello che ha interessato di più è la maretta sul palco piuttosto che i nostri contenuti, che sì, sono passati, ma insomma c'è di più da dire, come tu giustamente hai detto prima. Noi abbiamo letto sul programma di Sonorando, di questo programma della manifestazione dei Mai Più Complici, che doveva avvenire a Torino nel giro di due giorni, che la Fornero appunto avrebbe partecipato per portare i suoi saluti e insomma per schierarsi dalla parte delle donne. Al che ci è sembrato abbastanza incoerente e poi anche poco sensato da parte delle organizzatrici stesse accogliere la Fornero in maniera totalmente acritica, anche perché come tutti noi sappiamo, poi nella vita quotidiana ci sono più fattori che interagiscono e portano le donne a essere soggette a violenza e essere limitate nella loro vita. Certo. E sicuramente la riforma del mercato del lavoro, come la riforma delle pensioni, sono davvero due azioni concrete che vanno a limitare tantissimo le donne nel loro quotidiano. Quello che volevamo dire, il messaggio che è principale, che una donna che economicamente non è indipendente non è libera dalla violenza. Certo. E perché da quella casa dei violenti non può andarsene, così come volevamo anche sottolineare che ci sono diverse forme di violenza, che sì, c'è la violenza domestica, ma c'è anche quella che è una violenza sociale, una violenza delle istituzioni, che poi ti porta ti porta a essere schiava di quello che è del tuo ruolo familiare, ti porta a essere schiava magari del compagno violento, piuttosto che schiava del datore di lavoro. E questa condizione deve essere sottolineata se si vuole fare un discorso per le donne, queste cose devono avere un riscontro, devono trovare lo spazio di essere narrate, perché battersi per quello che è la libertà delle donne, dire facciamo riforme per le donne e per, non deve essere una bandiera, e in questo periodo sta diventando una bandiera. Un'altra cosa che ci tenevamo a dire è che essere donna non basta, cioè bisogna anche fare delle azioni concrete per le donne, bisogna ascoltare poi le donne in quello che è il quotidiano della loro vita. Credo che ci sia anche una questione di differenze economiche, e forse alcune donne non riescono più a capire quali sono i problemi che tutte noi viviamo nel quotidiano, perché semplicemente non li vivono. Certo. E quindi non vivendoli ne sono completamente estranee e disinteressate. E sì, quello che era la nostra sensazione è che fosse più ci sia tantissima ipocrisia e tantissima voglia di utilizzare e strumentalizzare l'argomento femminista, che poi vabbè, loro non si definiscono, certo, se non era quando non si definisce femminista, però insomma utilizzare l'argomento donne per altri scopi. Questa è stata la nostra sensazione. Poi sulla dinamica di come è andata, io l'ho trovata parecchio triste, poi sono stata quella tacciata di essere poco democratica, e mi ha fatto anche sorridere, perché noi abbiamo appunto, ci siamo alzati in piedi, abbiamo urlato degli slogan, perché non c'è stata data la possibilità di parlare, di intervenire e di portare quelle che erano delle nostre istanze in quel luogo. A questo punto abbiamo preso parola, ci siamo fatte spazio, e la prima reazione è stata una reazione non si vede nei video, perché ovviamente insomma non era più interessante riprendere la Fornero, ma la reazione dell'organizzatrice è stata quella di bloccarci subito. Poi erano quattro madamin col tacco ben vestite che arrivano lì a fermarti, mi ha fatto abbastanza sorridere, no? Urlando, ma basta che ci stai rovinando il nostro convegno che l'abbiamo organizzato da tempo, che maleducate, con tutti questi argomenti che hanno molto poco di politico. Certo. E poi abbiamo continuato niente, e la Fornero, che è molto padrona in realtà della situazione sul palco, era tra una platea che l'applaudiva, quindi insomma la situazione era sicuro di disequilibrio, ci ha invitato sul palco l'organizzatrice, la presentatrice, che si chiama appunto Laura Onofri, ha rincarato la dose sull'inopportunità della nostra azione in quel momento. Poi ti hai visto un po' tutti e tutte quello che è capitato. Abbiamo provato a portare degli argomenti, ma no, come dici tu, poi le modalità spesso prendono il sopravvento, la forma sui contenuti, che comunque noi appunto poi condividiamo pienamente, motivo per cui volevamo comunque darvi uno spazio per ripetere ulteriormente con calma queste cose, che ci trovano assolutamente d'accordo sia nell'analisi che avete fatto di Se non ora quando, sia su una delle forme di violenza, che è proprio quella legata alla libertà economica insomma delle donne. Le cose sono collegate e ci sono responsabilità insomma nel peggiorare o migliorare la vita delle donne. Senti, sì, chiaramente, ma poi non avendo, cioè non abbiamo avuto spazio, ma il problema dell'articolo 18 e il mascheramento che fa dei licenziamenti discriminatori è un problema che nella vita reale legittimerà un sacco di datori di lavoro a portare avanti azioni contro le donne, che sono sempre le prime a saltare nei posti di lavoro. Insomma, tutta questa azione dell'articolo 18, ma alle stesse la stessa modalità in cui ha legiferato sulle dimissioni in bianco, che io da giurista ho trovato assolutamente inefficace, una trafila burocratica quando c'era un'altra legge, che quella del 2007, poteva essere ripresa molto, molto semplicemente, ha tirato su una trafila burocratica, poi nel colloquio privato ne abbiamo parlato e la sua giustificazione è stata: sì, però bisogna tutelare anche i datori di lavoro da quei dipendenti che si dimenticano poi di firmare le dimissioni. Certo. Sono insomma degli argomenti abbastanza, non lo so, strani, ridicoli, non so bene come chiamarli. Sì. Perché si tratta davvero di non vedere la generalità, il 99% ma dei casi, ma di mettere in una legge che previsione generale la tutela di quell'1% che di solito va fatta discrezionalmente dal giudice. Poi vabbè, non volevo parlare troppo di tecnicismi, perché io da giurista, no, magari ci abbiamo, ecco, le leggi, mi dico ma c'è un modo più semplice. Guarda, magari volentieri poi organizziamo e ci puoi aiutare una trasmissione su queste tematiche, insomma, perché ecco, ti vedo molto preparata anche dal punto di vista legale. Per ora ci salutiamo, però appunto continuate a tenerci informate delle vostre iniziative, che insomma sono interessanti, e poi magari ci risentiamo, ecco, per invece un approfondimento su questi temi dell'economia. D'accordo. Va bene. Vi ringraziamo tanto per lo spazio e insomma speriamo che ci siano altri gruppi in giro per l'Italia che continuino a contestarla, come se è capitato prima e come sta capitando anche adesso, come è capitato a Torino, ma come è capitato anche prima.